e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. E oggi mannaggia solo con Deborah Rosciani, ma Nicoletta torna domani con noi. Di che cosa parliamo questa mattina? L'hanno già ribattezzata la svolta del catasto, di riforma vera e propria di quella che noi conosciamo come la fotografia del patrimonio immobiliare italiano, si parla da anni. Ora l'Agenzia delle Entrate ha dato un bel colpo di acceleratore alla riorganizzazione della mappatura degli immobili italiani, mettendo da lunedì online i dati sulla superficie in metri quadrati di ben 57 milioni di unità immobiliari a destinazione ordinaria, case, box auto, magazzini, locali commerciali, laboratori. Il dato non si riflette sulla rendita catastale, che continua e continuerà ad essere calcolata invani, ma è utile per verificare la metratura usata dai comuni per il calcolo della Tari. Allora, che implicazioni ha questa novità della quale si sta parlando tantissimo e come si fa per andare subito a curiosare sul sito delle entrate in modo da verificare in prima persona che informazioni ci sono sul nostro immobile di proprietà? Ne parliamo oggi in apertura per la pagina di Denari, per cui mettete subito mano alla cornetta per le vostre domande su questa notizia, 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Nella parte di cuore, per la quale ovviamente pure potete intervenire in diretta chiamando lo stesso numero verde, parleremo di una novità nella diagnosi della celiachia introdotta dall'aggiornamento delle linee guida del Ministero della Salute, che riguarda 50.000 piccoli potenziali celiaci. Restate con noi, faremo il punto della situazione a partire dalle 11.30 con il dottor Marco Silano, membro del gruppo di lavoro che ha definito le nuove raccomandazioni e direttore del reparto di alimentazione, nutrizione e salute dell'Istituto Superiore di Sanità. Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi. Cristiano Dell'Oste del Sole 24 Ore, hai sentito che introduzione romantica che ti abbiamo fatto? Bellissimo, grazie, buongiorno a tutti. Allora, invece le pareti ci sono, bisogna guardarle con grande attenzione, con altrettanta attenzione misurare le superfici delle nostre case. Non dovremmo farlo noi, naturalmente, chi di dovere dovrebbe a suo tempo averci già pensato, e per ricordarci e non perdere questi dati così importanti c'è il catasto, che pian piano si sta trasformando. Attendiamo presto una vera e propria riforma della quale si parla da tanto tempo, intanto però ci accontentiamo di una novità molto importante, molto rilevante. Da lunedì sono online i dati sulla superficie in metri quadrati di 57 milioni di unità immobiliari, come dicevamo prima, a destinazione ordinaria. Si tratta di case, di box auto, di magazzini, locali commerciali, laboratori. A cosa servono questi dati? Voi avete già provato ad ottenerli? 800 24 00 24 per tutte le vostre domande e testimonianze in materia di catasto e di metri quadrati. Chiariamo subito, lo abbiamo precisato già all'inizio, che questo dato reso adesso fruibile appunto dall'Agenzia delle Entrate non si riflette sulla rendita catastale. Questa continuerà ad essere calcolata invani, è però un dato utile per verificare la metratura che viene usata dalle amministrazioni comunali per il calcolo della Tari. Ho già salutato Cristiano Dall'Oste, Harry, buongiorno. Buongiorno. E saluto anche, ringrazio per essere con noi, Mirko Mion, presidente di AGEFIS, l'Associazione dei Geometri Fiscalisti. Buongiorno presidente, ben ritrovato. Buongiorno Deborah e buongiorno Cristiano. Allora, oltre al numero verde potete anche scriverci i vostri quesiti al 349-238-6666. Cristiano, allora andiamo subito, al di là della presentazione che ho fatto io, a fare questa operazione chiarezza in termini di comunicazione e informazione ai nostri ascoltatori. Spieghiamo bene che cosa è successo lunedì. In cosa consiste precisamente questa operazione trasparenza che vede agire nella stessa direzione Catasto e Agenzia delle Entrate? Sì, allora diciamo che da lunedì nelle visure catastali che vengono scaricate sia dai professionisti sia dai privati, dai comuni cittadini tramite il PIN di Fisco Online, poi spiegheremo magari certo meglio come si fa, ecco, in queste visure si è aggiunta una piccola casella che a prima vista potrebbe addirittura passare inosservata, ma è una casella che contiene di fatto l'informazione della superficie in metri quadrati dell'immobile che risulta ovviamente al catasto. Allora, questa superficie segna un passo in più per le case che sono abitualmente tuttora censite in vani e che continuano a essere ancora censite in vani ai fini della rendita, e questo l'hai già detto bene, ma in più ci dicono quella che è la superficie che risulta in catasto. Questa è un'operazione che l'Agenzia delle Entrate aveva già avviato nel presupposto che poi si facesse la riforma del catasto, ora congelata, messa da parte dal governo per una scelta politica, ma appunto avendo il dato si è deciso di renderlo disponibile. È un dato che riguarda circa 57 milioni di unità immobiliari a destinazione ordinaria, per intenderci quelle iscritte nei gruppi catastali A, B e C. C'è da chiedersi a cosa serve allora andare a vedere i metri quadrati, e qui possiamo spiegarlo. Esatto, e adesso lo faremo con calma. Ti segnalo già che Leo da Firenze ci scrive: ho già controllato, quindi lui tutta la procedura la conosceva già, ma adesso rifaremo l'ABC per gli ascoltatori, contribuenti e proprietari che non sanno andare sul sito dell'Agenzia delle Entrate per controllare queste informazioni. Bene, Leo da Firenze ci scrive: su 4 abitazioni tutte sono errate rispetto alle giuste planimetrie, quindi per la Tari cosa farà il Comune? Adesso cercheremo di dare una risposta anche al nostro ascoltatore. Quindi, certo, come ci dicevi Cristiano, l'Agenzia delle Entrate disponeva già di questi dati, delle informazioni relative a questi immobili. La novità è che da lunedì li ha resi fruibili in rete a disposizione di tutti. Esatto, diciamo di più, questi dati erano già disponibili per i comuni da qualche tempo. Poi noi sappiamo che non tutti i comuni accedevano e prelevavano queste informazioni tramite il portale di interscambio delle informazioni tra entrate e comuni, ma erano dati che già i comuni avevano sotto mano. Quindi esatto. Allora, dottor Mion, abbiamo spiegato che le finalità di questa operazione, vengo a lei, di questa operazione trasparenza, è quella di cercare di dare coerenza, o sempre maggiore coerenza, fra i valori fiscali delle case, che in molti casi sono arretrati, e la realtà di mercato, che è profondamente cambiata negli ultimi anni. Le chiedo qual è il suo giudizio su tutta questa nuova impostazione e quanto siamo distanti da questa riforma del catasto a 360 gradi di cui parliamo, lo abbiamo fatto anche con lei tante volte, da anni, e come diceva poco fa Cristiano Dell'Oste, al momento messa da parte, non cancellata, ma rinviata presumibilmente per scelte di natura politica. Beh, certamente questo potremmo definire un primo passo per rendere più trasparente l'operazione futura e auspicabile della riforma del catasto, che è quella poi di rendere pubblici man mano tutti quei dati, in questo caso metrici, ma poi tutti gli altri dati relativi agli immobili di nostra proprietà. Nel progetto futuro c'è quello anche dell'allineamento di tutta una serie di banche dati, compreso quello delle mappe che oggi troviamo all'interno della funzione che ci viene messa a disposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate, ma attualmente non funziona, perché oltre a quelli che possono essere gli errori legati alla metratura della nostra abitazione, potremmo trovare anche altre tipologie di errori, ma sicuramente ne parliamo esatto. più avanti. Anche perché da quello che capisco, sì, no, volevo solo segnalare agli ascoltatori, se lo volessero già sapere subito, e lo scrive molto bene stamattina anche il Sole 24 Ore, ci sono anche le possibilità per correggere alcune delle informazioni errate, no? Sempre naturalmente certo. andando sul sito dell'Agenzia delle Entrate, bisogna capire però quali informazioni si possono correggere, perché dubito che si possa andare a correggere una planimetria. Mion. Sì, assolutamente. Diciamo che le possibilità che vengono messe a disposizione del cittadino, e in questo caso cittadino utente, perché dovrà prima accreditarsi sul sito di Fisco Online, c'è la possibilità di una correzione e rettifica dei cosiddetti dati catastali attraverso l'ausilio di un bottone messo a disposizione del cittadino, nel quale potrà andare a segnalare gli eventuali differenze tra ciò che lui ritiene corretto e ciò che va a leggere all'interno della misura. Come dicevo, potrebbe essere una differenza sui metri quadri, ma potrebbero esserci anche altre tipologie di errori che il cittadino ritiene di aver messo in evidenza. Sicuramente non potrà correggere una planimetria. Vale anche la pena di ricordare che i metri quadrati che vengono segnalati all'interno della misura sono metri quadrati, per così dire, ragguagliati. Quindi attraverso un calcolo specifico che risponde a un dettame normativo, all'allegato C del DPR 138 del 98, alcuni vani in particolare o alcune pertinenze sono poi calcolate in percentuale. Quindi cittadino non dovrà confondere in qualche modo il calcolo fatto in proprio dei metri quadri della propria abitazione, che potremmo definire i metri quadri calpestabili. Esatto, perché c'era già una domanda in questo senso, quindi non dovrà confondere la superficie calpestabile con che cosa? Con la superficie catastale che troverà nella visura, perché questo è il valore, la somma di un calcolo preciso di una superficie, come dicevo, ragguagliata, che tiene conto di percentuali di alcuni vani al 100%, di alcuni al 50%, di alcuni al 25%, addirittura delle pertinenze tra il 10% e il 2%, ad esempio, di quello che può essere un giardino di pertinenza dell'abitazione verrà calcolato in percentuale. Io ho relativamente capito, adesso magari cercheremo di capire ancora qualcosa di meglio attraverso qualche esempio mio, se riusciamo a farlo. Vi segnalo già, chissà se questo dipende dai comuni, ce lo faremo spiegare dai nostri ospiti, che Pierluigi da Mantova ci scrive: ho controllato ieri sera ma non c'era niente di nuovo, solamente i vani. Chissà se ci sia qualche ritardo anche nella comunicazione di dati, di incrocio dati. Cristiano, cosa può essere successo in questo caso? Beh, può essere che la sua abitazione sia una di quelle per le quali non esiste la planimetria in catasto, o per le quali la planimetria esiste ma era così approssimativa che l'agenzia non è riuscita a calcolarla. A leggerla. È un problema che riguardava alla fine di agosto, adesso si dovrebbe essere un po' assottigliato, circa 3.300.000 immobili su un totale di 61, quindi perfetto, più o meno un 5%. Probabilmente, che ne so, immobili che non sono mai stati ristrutturati, riorganizzati, sì, anche dal punto di vista della distribuzione interna degli spazi. Perché per i primi anni, dopo l'istituzione del catasto nel secolo scorso, non è stato obbligatorio depositare le planimetrie, quindi ci potrebbero essere case che non sono mai state vendute, ma sono solo state ereditate negli anni, non hanno mai avuto lavori, e lì non si è mai intervenuti con il deposito con di una vera planimetria. Certo. Il traffico, torniamo su tutto questo tra pochissimo. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Cuore e Denari. Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina. Ecco, questa sicuramente di Sergio Endrigo non la troviamo sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Certamente i metri quadrati di questo tipo di abitazione sarà difficile poterli appurare. Allora, stavamo con Cristiano Dell'Oste, a prescindere da tutte le domande che ci siamo preparati su questa operazione trasparenza dell'Agenzia delle Entrate e del Catasto, ci stavamo ragionando appunto invece sulle domande che stanno arrivando da parte degli ascoltatori, perché molti stanno scrivendo, sia chi ha già controllato a partire da lunedì non aspettavano altro che poter monitorare la situazione della propria abitazione sul sito dell'Agenzia delle Entrate, chi ha già controllato, chi lo sta facendo proprio in questi minuti grazie anche alla nostra trasmissione, ebbene, a quanto pare nessuno trova questo dato sui metri quadrati. Allora abbiamo dedotto con Cristiano, forse non vanno a cercare nel punto giusto, pertanto è giunto il momento di andare immediatamente a dare le istruzioni per leggere queste informazioni. Allora, diamo per scontato che già siano andati tutti su Fisco Online, abbiano il PIN, si siano accreditati quindi regolarmente. Dobbiamo, una volta entrati nel servizio Fisco Online, selezionare dal menu a sinistra la voce servizi ipotecari e catastali. Poi ti do lo scettro, Cristiano, vai avanti tu. Sì, esatto. Poi qua, prima cosa importante, bisogna andare nel menu consultazioni personali, non in quello risultanze catastali, consultazioni personali, perché l'altro permette di fare delle ricerche di tipo diverso. Adesso poi non stiamo ad andare troppo nei dettagli. Da consultazioni personali viene visualizzato il nome del contribuente che sta effettuando la ricerca, perché chiaramente si fa soltanto per i propri immobili. Se sei un privato, solo i professionisti possono fare le visure anche per altri. Ampie, sì. Esattamente. Quindi si vede la lista la lista dei nomi nel caso ci fossero degli omonimi, se no un solo nome. Si procede, si seleziona e a quel punto appaiono tutte le province rispetto alle quali per quel contribuente ci sono degli immobili posseduti. Si seleziona la provincia. A quel punto si può fare, dopo aver scelto la provincia, la visura per soggetto. Se si fa la visura per soggetto è la via più rapida. Poi ci si può arrivare anche tramite la visura per immobile, che è invece la sezione da cui si vede anche ad esempio la planimetria. Però se quello che ci interessa è andare intanto a vedere il dato dei metri quadri, si fa visura per soggetto. A quel punto viene generato un file PDF che è composto da tante pagine quante sono gli immobili presenti in quella provincia, e proprio nella fascia dei dati catastali è un tabellino sostanzialmente che comincia dicendo foglio, particella, subalterno e così via. Proprio poi quei ci dati sono... che troviamo per esempio nel rogito, no? Insomma, esatto. Con i quali già abbiamo un po' di confidenza. Esatto, ci sono poi i vani, perché quelli sono ancora indicati, c'è la rendita espressa in euro e in lire, e poi appare questo dato dei metri quadrati che è indicato in due modi, superficie totale e superficie escluse le aree scoperte. Ovviamente chi non ha grandi balconi o non ha grandi cortili avrà una superficie che è praticamente uguale, però diciamo è un dato dettagliato al lordo delle aree scoperte o senza le aree scoperte. Benissimo, quindi speriamo di aver dato tutte le istruzioni per poter accedere a queste informazioni, magari cercheremo anche di renderle fruibili su Facebook in qualche maniera, le scopiazziamo dal Sole 24 Ore appunto dei pezzi di Cristiano Dell'Oste e vediamo poi se attraverso questa modalità riuscite a trovare l'informazione che serve o se davvero non esiste come molti ci state segnalando. 800 24 00 24, il numero verde a vostra disposizione, andiamo allora alla situazione di chi è riuscito a scovare l'informazione cercata ed è un'informazione differente rispetto a quello che si aspettava. Giancarlo da Bergamo, buongiorno. Informazione, purtroppo ho comprato un appartamento 2 anni fa, una casa ristrutturata. Sì. Ho un valore catastale pare altissimo, 1023,88, sono 95 metri quadri. Sono andato al catasto per controllare, perché pago parecchi soldini di Tasi, e mi hanno detto che la mia misura sono 130 metri, perché ho anche un pezzetto di verde. È normale? Giancarlo, allora andiamo un po' a sentire che cosa ne pensa. Abbiamo un minuto prima della pausa per il giornale radio, ma speriamo che Mirko Mion possa fare una consulenza adeguata al nostro ascoltatore. Allora, è un'incongruenza abbastanza importante quella che Giancarlo rileva, chiaramente con tutte le ricadute sulle imposte che ci paga sopra. Mion, cosa può fare per fare una modifica, un aggiornamento dei valori catastali corretti? Se l'incongruenza è legata alla differenza dei metri quadri, dovrà chiaramente accatastare, quindi fare una procedura nuova ad OCFA attraverso la procedura messa a disposizione online a tutti i professionisti. Non è che si va sul sito dell'Agenzia delle Entrate, si fa una semplice banale modifica. L'Agenzia delle Entrate potrà fare anche questa eventuale segnalazione attraverso il contact center, compilando ben 7 maschere con tutti i dati relativi all'immobile e la tipologia di incongruenza che lui ha rilevato, lo invierà e dovrà aspettare di essere contattato dal contact center. Però se ma va periziato questo immobile per fare una verifica effettiva della differenza dei metri quadrati denunciati da Giancarlo e quelli risultanti al catasto? Non ho capito la domanda. Qualcuno glielo deve periziare, insomma, oppure va bene un'autodenuncia da parte di Giancarlo. Comprendo che può essere magari complicato comprendere, scusate il bisticcio di parole, che cosa si intende per superficie ragguagliata, però non è possibile che il cittadino in autonomia possa verificare la coerenza e la correttezza tra la superficie del proprio immobile e quanto eventualmente esposto. Benissimo. Mion, devo andare al giornale radio, rifacciamo l'ABC di questo caso tra poco. Il segnale orario vi è offerto da... Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Cuore e denari. Grandi passi per brevi distanze. Ecco, contatele bene le stanze della vostra abitazione, perché i vani servono per calcolare la TASI e per naturalmente calcolare anche la rendita catastale. Invece i metri quadrati, che oggi potremmo conoscere grazie attraverso tutta una modalità di ricerca molto specifica sull'Agenzia delle Entrate, ci servono per capire se il comune calcola bene la TARI. Allora, ho cercato di fare una sintesi estrema di questa grande novità della quale parliamo questa mattina. Da lunedì scorso l'Agenzia delle Entrate ha reso fruibili proprio dalla rete, quindi online, i dati sulla superficie ai metri quadrati di 57 milioni di unità immobiliari. Abbiamo spiegato prima con Cristiano Dell'Oste e Mirko Mion le modalità per andare a caccia di questa informazione. Molti di voi si sono già cimentati, molti di voi ci stanno denunciando la sorpresa che hanno trovato. Allora è chiaro che Speriamo, Cristiano, che le telefonate che stanno arrivando sono quelle delle situazioni problematiche. Raccontateci però anche se avete trovato il dato e se corrisponde con quello che era di vostra conoscenza di già. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi. Riepilogo il caso che stavamo commentando prima della pausa, quello di Giancarlo da Bergamo. Un'abitazione di 95 metri quadrati, lui dice, che però al catasto risulta di 130 metri quadrati, pertanto lui paga, secondo lui, la TASI secondo questa metratura, ma la TASI va pagata secondo i vani, Cristiano. Esatto. Per cui allora, la sua lamentela è giustificata o no? Allora, la sua domanda ci permette di fare un pochino il punto, perché allora lui diceva: io sto pagando la TASI su una rendita, la TASI oppure l'IMU se fosse una seconda casa, su una rendita di oltre 1000 euro, che è molto alta. Allora, prima cosa da dire: se la rendita è alta, oggi è quasi impossibile ridurla nel sistema catastale italiano, e questo non c'entra niente con i metri quadrati. La si potrebbe ridurre in qualche caso se magari la planimetria non fosse più aderente ai fatti, se la casa si fosse, tra virgolette, rimpicciolita, ma il nostro ascoltatore ci ha detto che ha comprato la casa un paio d'anni fa e dal 2010, quando si compra una casa, il notaio non può rogitare se non c'è il perfetto allineamento tra la situazione di fatto e quello che risulta in catasto. Quindi noi sappiamo che per lui la planimetria verosimilmente è corretta. Corretto. E allora la sua rendita se la deve tenere finché non viene fatta la riforma del catasto. Poi lui ci dice un'altra cosa. Ha visto che ha una metratura catastale più alta di quella che a lui sembra corretta, 130 metri anziché 95. Potrebbe essere che lui ha sbagliato il calcolo, oppure potrebbe essere che è sbagliato il dato in catasto, o potrebbe anche essere che il dato è corretto perché lui ha delle aree scoperte che il catasto contesta. Allora, cosa fare in questo caso? Giustamente prima Mion diceva: il tecnico è l'unico che ti può riscontrare correttamente la superficie. Certo. Vero. Mm. Però siccome il tecnico lo si paga, magari il nostro ascoltatore può prima fare una cosa, cioè andare a vedere in comune o anche soltanto dai bollettini della TARI sui rifiuti, esatto, che gli sono arrivati, su quale superficie lui sta pagando la TARI, perché non è escluso che lui la superficie la stia pagando su una metratura molto vicina ai 95 e non ai 130 che risultano in catasto. Per quale motivo? Perché se noi andiamo a vedere la legge sulla tassa rifiuti, che è la finanziaria di 2 anni fa che ha introdotto la TARI, ci dice che per il momento la superficie, la TARI si paga ancora sulla superficie calpestabile, e la superficie catastale la si userà dopo che sarà stato fatto un certo accordo tra i comuni e pubblicato un provvedimento dalle entrate e così via. Quindi per il momento non la si usa. Allora uno dice: perché c'entra la superficie catastale? C'entra perché una legge precedente, non dimentichiamo che siamo in Italia, diceva che i comuni avrebbero dovuto in ogni caso applicare la TARI almeno sull'80% della superficie catastale, e comunque che ancora già oggi, quando vanno ad accertare il tributo, possono usare, per semplificarsi la vita, come parametro l'80% della superficie catastale. Quindi in qualche modo è probabile che la superficie catastale c'entri con la TARI, ma non in tutti i comuni. Quindi per prima cosa andare a vedere su cosa sto pagando la TARI. Se in comune risulta che sto pagando la TARI su 95 o lì vicino, su 95 o lì vicino, potrei anche decidere di star tranquillo. Se risulta invece che sto pagando su una superficie di 130 e quel 130 mi è sbagliato, è proprio evidentemente sbagliato, allora lì potrei valutare un rapporto costi-benefici con, esatto, un tecnico che, esatto, mi dice: guarda, la superficie è effettivamente così, ti aggiorno la superficie catastale e vai a risparmiare qualcosa di TARI. Benissimo. Però il passaggio in comune è fondamentale. È fondamentale. Allora, Mirko Mion, peraltro, proprio a proposito della risultanza incongruente rispetto ai dati di cui noi siamo certi e quelli che troviamo appunto sull'Agenzia delle Entrate secondo il nuovo meccanismo che abbiamo spiegato poco fa, no? Ecco, quali dati è possibile modificare qualora trovassimo degli errori? Perché abbiamo già detto che chiaramente una planimetria, un grafico, un disegno, non possiamo certo andarlo a modificare di nostra spontanea iniziativa. Potrebbero essere per esempio sbagliati dei dati anagrafici relativi al contribuente, quindi prima domanda, secondo, certo, se poi vuole aggiungere, sì, qualcosa rispetto a questo caso un po' complicato di Giancarlo, che in realtà magari potrebbe essere anche il caso di molti altri ascoltatori. Certamente, beh, diciamo, rispondendo un po' per ordine alla sua prima domanda, possiamo trovare varie tipologie di errore, no? Quindi oltre al dalla differenza che noi riteniamo non corretta sui metri quadri possiamo trovare, appunto, come dicevo poco fa, incoerenze per i fabbricati non dichiarati piuttosto che errori sulla toponomastica, quindi il nostro immobile è inserito all'interno di una via corretta oppure nella via corretta ma con un civico sbagliato. Quindi le tipologie di errore possono essere anche di natura, diciamo così, soggettiva e non oggettiva, legata all'immobile. E non sono errori, come dire, gravissimi, perché altrimenti magari il fisco in qualche maniera ci avrebbe contestato queste. E certo, anche perché potremmo trovare addirittura percentuali di possesso diverse da quelle che sono nella realtà, quindi al posto di avere un 50% ne possediamo una percentuale superiore oppure una percentuale inferiore. Questo chiaramente io ritengo che sia un'azione da parte dell'Agenzia delle Entrate importante di trasparenza di questi dati, affinché il cittadino possa avviare in autonomia, utilizzando i servizi messi a disposizione dall'agenzia o un tecnico, come dicevamo poco fa, possa comunque avviare un'attività di bonifica di tutti questi dati. Chiaro. Perché non dimentichiamo quanto è stato detto all'inizio della trasmissione, che prima o dopo, noi ci auguriamo sempre prima, si avvierà questa benedetta riforma del catasto che dovrebbe andare a riperequare i valori. Siccome la riforma del catasto, questo ormai voglio dire, è rimasto nelle bozze, ma ritengo che sia un dato certo, perché fa riferimento a delle normative precedenti, sarà l'elemento di calcolo, non sarà più quello del vano moltiplicato le tariffe d'estime delle zone censuarie, ma sarà il metro quadro moltiplicato un valore che dovrà essere poi definito. Andare a bonificare questo dato ed eventuali altri dati ci metterà in una condizione domani di poter avviare una riforma del catasto, quantomeno poi sul nostro immobile, in modo corretto. Io volevo puntualizzare anche, no, rispetto al caso dell'ascoltatore, diciamo, di Bergamo, dell'ascoltatore di Bergamo, che molte volte c'è una percezione da parte del cittadino di un valore in termini della propria abitazione che è coerente, perché si raffronta con magari un pari grado, per così dire, cioè un proprietario di un immobile vicino a lui di analoga metratura. Se non puoi scoprire che la sua casa catastata in tempi più recenti magari ha un numero di vani superiori, oppure è stato assegnato un valore attraverso la procedura DOCFA superiore. Ed è proprio questo che sarà oggetto della riforma del catasto, quello di andare a riperequare questi valori e poter mettere nella condizione di far pagare il giusto ad ognuno e non far pagare di più a chi ha di meno, far pagare di meno, certo, a chi ha di più. Allora, intanto, un'altra situazione simile a quella di Giancarlo da Bergamo riguarda Pompeo da Milano, in questo caso parliamo di un esercizio commerciale. Pompeo, buongiorno. Eccoci qua. Io ho un semplice caso, utilizzo comunque Fisco Online da quel dì, quindi sono andato subito l'altra notte quando era disponibile. Allora X appena è scattata lei, Pompeo era già lì davanti. No, beh, perché io ho tutte le misure catastali, mentre prima andavo al cadastro, adesso me le faccio online. Allora ho un negozio categoria C1, alla colonna consistente 51 metri quadri, che in realtà nella verità li ho misurati, sono veri. E adesso è apparsa la colonnina superficie catastale, perché prima era vuota nella misura, e ci trovo 60 metri quadri, cioè il 17% in più. Ecco qua. Qui il negozio è un rettangolo, quindi non è... Non è che lei dice si è improvvisamente gonfiato, ampliato, così un po' a sua insaputa, come capita capire, per molti, no, immobili in Italia. Pompeo, allora aspetti un attimo lì. Cosa può essere successo, Cristiano? Che tipo di implicazioni ha, peraltro, questa modifica per lei, Pompeo, a parte la sua sorpresa? Il 17% in più di Tari e il 17% in più di Tari. Che lei ci ha pagato a sua insaputa, in questo caso. Non ha comprato nessuna casa a sua insaputa, qualcuno l'ha comprata per lei, come è capitato a molte persone negli ultimi anni nel nostro paese, ma a sua insaputa paga delle tasse un po' più alte rispetto a quelle che lui dice pagare. Non è detto. Bisogna vedere, attenzione. Perché anche Mione sotto Borbotta. Allora, già oggi i negozi sono misurati dal catasto non in vani ma in metri quadrati, quindi nel caso dei negozi l'aggiunta della superficie catastale rispetto alla superficie usata per determinare la consistenza può creare dei piccoli paradossi, per cui lo stesso immobile ha due superfici differenti. Allora, ai fini della rendita catastale, questo ce l'hanno detto anche le entrate nel comunicato dell'altro ieri, ai fini della rendita catastale quella che è la superficie diciamo che misura la metratura in termini di consistenza rimane e la rendita non cambia, quindi i muetasi quelle sono, a meno di macroscopici errori. In quel caso si può avviare, come dicevamo prima con Mion, una pratica con un professionista, però presupponiamo che siano corretti, diciamo che sia corretta la superficie del negozio così come risulta. C'è da chiedersi da dove arrivano quei 17 metri quadrati in più della superficie catastale e se rappresentano un problema. Allora, intanto capiamo da dove possono derivare. Il DPR che citava prima Mion, che è il DPR 138 del 98, ha un allegato, si può trovare facilmente su internet con una banale visto ricerca. Visto che Pompeo peraltro così ormai esatto, esperto della ricerca di questi documenti. L'allegato C ci dice per esempio che per i negozi e le botteghe, quelli della categoria C1, bisogna conteggiare anche ad esempio i locali accessori nella misura del 50% se sono comunicanti o del 25% se non sono cosa comunicanti. Cosa può essere un locale accessorio nel caso del negozio di Pompeo? Un piccolo magazzino, uno scantinato, qualcosa del genere. Magari non c'è nulla e questa misura non è giustificata, sto facendo delle ipotesi. Comunque va fatta questa prima verifica. Poi dopodiché, se questi 17 metri quadrati in più proprio non ci devono essere, a quel punto bisogna andare a vedere su cosa sta pagando la Tari, perché non dimentichiamoci che la Tari deve essere pagata sull'80% della superficie catastale come parametro ideale. Poi però, dicevamo prima, adesso la Tari si paga ancora sul calpestabile, quindi se il nostro ascoltatore vede che sta pagando la Tari su una superficie corretta, potrebbe anche decidere di limitarsi a inviare una segnalazione alle entrate tramite il modello, tramite il sito Fisco Online, senza dover quindi chiamare... C'è la possibilità di fare queste segnalazioni. Esatto, fa una segnalazione gratuita, senza dover incaricare un professionista, e nel frattempo, siccome non sta pagando più tasse, vediamo se e cosa cambia a livello di inquadramento catastale. Lui è bravo, può tenere monitorata la situazione e vedere se succede qualcosa. Se invece lui oggi sta pagando la tassa rifiuti su una superficie più alta perché il comune di, magari il comune di Milano ha nel suo caso scaricato la superficie catastale già qualche anno fa e l'ha parametrata a quel riferimento, allora in quel caso potrebbe valutare di rivolgersi a un professionista o di contattare il comune facendo un'istanza di autotutela al comune. Ma attenzione, se sono 17 metri su una cinquantina non siamo molto lontani da quel parametro dell'80%, ecco. Quindi probabilmente non nel suo caso non starà pagando di più, io ritengo. In questa operazione. Esatto. Adesso faccio aggiungere quello che vorrà aggiungere Mirko Mion, ma ci metto insieme anche il caso di Angela dalla provincia di Milano, una gentile signora. Buongiorno Angela. Buongiorno. Senta, io abito in un monolocale di una cooperativa. Cosa posso fare per sapere i metri quadri se corrispondono a quelli che la cooperativa descrive? È una sua proprietà, Angela? No, sono in affitto. Grazie. Allora, Mion, partiamo da Angela. Intanto, per chi abita appunto in un'abitazione evidentemente in affitto, lo stesso, utilizzando le credenziali di Fisco Online, può andare a fare il controllo dei metri quadrati della propria abitazione o non ne ha diritto? Beh, allora, intanto la signora non ha la proprietà e quindi diciamo che non vedrà i metri quadrati relativi e la misura relativa al suo immobile, perché non potrà fare un'interrogazione essendo poi non inserito l'abbinamento con il suo codice fiscale. Vale la pena ancora anche di ricordare una cosa rispetto al fatto che molti ascoltatori non trovano il valore del metro quadrato, perché molti ci hanno segnalato che si soffermano sulla prima videata dove compaiono la lista degli immobili intestati al soggetto. Infatti, lo immaginavamo anche con Cristian. Per vedere il valore dei metri quadri sarà importante andare a cliccare sul bottone misura e a quel punto si genererà automaticamente il PDF, esatto, nel quale troveranno a fianco della voce classe, quindi dopo la categoria e prima e dopo la consistenza, la superficie catastale. Soltanto lì lo vedranno, non lo vedranno nella videata. Per quanto riguarda l'ascoltatrice, direi che dovrebbe rifare questo tipo di richiesta alla cooperativa affinché gli fornisca i dati relativi all'immobile, che peraltro dovrebbe avere all'interno del anche contratto d'affitto, del contratto di locazione, come dato. Angela, come quindi dato. Vada a fare una verifica, altrimenti ha tutto il diritto comunque di chiedere. Del, dell'attività del commerciale, direi che Cristiano è stato quanto mai esaustivo e completo nella disamina e nelle precisazioni che ha fatto. Benissimo. Allora, che cos'altro adesso? Tra l'altro già il tempo a nostra disposizione sta scadendo, fra un po' devo raccontare i mercati finanziari, poi passare alla parte di cuore. Abbiamo un'ultima considerazione di un altro ascoltatore di Bergamo, che in questo caso è Pier Giorgio, adesso gliela faccio fare, ma abbiamo ancora delle informazioni concrete, utili da dare ai nostri ascoltatori su tutta questa operazione, sulla quale magari più avanti ci torneremo, Cristiano, perché se continuano ad arrivare segnalazioni di chi non trova l'informazione o non riescono a generare questo benedetto PDF, che è proprio l'operazione finale dalla quale noi possiamo trarre questa operazione, quindi non fermatevi prima, deve arrivarvi il PDF finale. E in ogni caso, secondo te quali altri piccoli problemi potrebbero manifestarsi in questa, diciamo, che ricerca? A voler sfruttare bene questa possibilità, nel momento in cui siamo inseriti nella sezione delle visure catastali, dopo aver fatto la visura per soggetto, che è quella che ci permette di vedere la metratura, facciamo anche una visura per immobile e controlliamo se c'è la planimetria. Anche qui si genera un PDF dove si vede proprio la planimetria depositata in catasto, se è stata fatta a mano vediamo una scansione, ma si vede proprio quello che risulta nell'archivio catastale, e quindi andiamo a vedere se c'è la planimetria e se corrisponde o meno alla situazione reale del nostro immobile. Sappiamo che per le case fabbricati compravenduti dal 2010 questo deve sempre succedere, ma 2010 ad oggi sono poi pochi anni, quindi tutto il periodo precedente potremmo riscontrare delle difformità. Se vediamo che la planimetria manca o se vediamo che la planimetria è tutta diversa dalla casa, certo, in cui noi viviamo, beh, quantomeno il problema ce lo si può porre. È difficile che da un aggiornamento catastale si riesca ad abbassare la rendita, ma insomma comunque vale la pena di ragionarci un attimo. Benissimo. Allora, Pier Giorgio da Bergamo, se ce la fa in 30 secondi a fare la sua considerazione finale, ma dobbiamo salutare velocemente. Buongiorno. Buongiorno, sono un agente immobiliare. Io volevo capire due cose molto semplici e fondamentali. Uno, chi è che ha inventato questa nova normativa? Uno, non presenta il discorso che chi compra casa oggi fa un prezzo su un valore commerciale, anche se la legge prevede che uno compra a corpo e non a misura, sì, nello stato di fatto e di diritto. Uno. Quindi le planimetrie secondo me dovrebbero far fede, quindi non è un metro quadro commerciale o un metro quadro catastale, perché la differenza ci sarà sempre, quindi bastava solo calcolare il metro quadro della planimetria e riportare lo stesso a livello catastale. Uno. E così si creano meno problemi. Bene, Pier Giorgio, non era una domanda ma una sua riflessione. 5 secondi per la seconda, poi dobbiamo salutarla. 2. Per quanto riguarda la rendita catastale, sapete benissimo che i comuni oggi possono aggiornare la rendita catastale, quindi la categoria catastale, senza neanche informare il proprietario. Cioè da una è così. A 4, Pier Giorgio, devo salutarla perché ho i mercati, ma è così, Cristiano? È una possibilità che c'è, non l'ha più quasi fatto nessuno da quando si è iniziato a parlare di riforma del catasto, perché tutti i comuni aspettavano la riforma. Mi risulta che in questo momento sia abbastanza fermo questo processo di aggiornamento. Vedremo se, bloccata la riforma, ripartirà l'attività. Benissimo. Dei comuni, che però è sempre stata in casi molto limitati. Certo. Pier Giorgio, grazie per la sua per il suo intervento. Io mi devo fermare ringraziando Cristiano Dell'Oste e Mirko Mion per essere stati con noi come sempre chiarissimi. Come sempre scriveteci a cuoredenari@radio24.it, perché poi gli uffici di Agefis sono assolutamente a nostra disposizione per tutte le vostre richieste di consulenza. Adesso mercati e poi parliamo di celiachia, tra poco. Cuore e denari. Allora, 800 24 00 24, il numero verde da comporre per intervenire nell'ultima parte di Cuore e Denari. Nella parte di Cuore dedichiamo l'ultima parte del nostro programma ad una novità nella diagnosi della celiachia, novità introdotta dall'aggiornamento delle linee guida del Ministero della Salute. È una novità molto importante perché rende l'iter diagnostico meno traumatico, meno invasivo. Infatti per i più piccoli non sarà più necessario effettuare l'endoscopia, ma basterà un semplice esame esame del sangue. Ne parliamo oggi con il dottor Marco Silano, membro del gruppo di lavoro che ha definito queste nuove raccomandazioni e direttore del reparto di alimentazione, nutrizione e salute all'Istituto Superiore di Sanità. Buongiorno dottor Silano, benvenuto e grazie. Buongiorno, grazie a voi. Allora, stiamo parlando di una novità rilevante, spesso ospitiamo questo argomento nel nostro programma, una novità rilevante a fronte di una patologia che è in costante crescita. Dottor Silano, quanti sono al momento i bambini celiaci, quindi con una intolleranza permanente al glutine? Diagnosticati, quindi, che in questo momento hanno già avuto una diagnosi di celiachia in Italia, i bambini sotto i 10 anni sono circa 20.000. In realtà sappiamo che circa il 70% dei bambini celiaci ancora non sono diagnosticati, per cui c'è una cifra quasi doppia, circa 60-70.000 bambini sotto i 10 anni che in questo momento sono celiaci ma non sanno di esserlo, non hanno ancora ricevuto, esatto, una diagnosi. Anche perché proprio la sintomatologia, come spesso raccontiamo nel nostro programma, è di difficile interpretazione. Questo riguarda gli adulti, figuriamoci i bambini, che molto spesso non sanno neanche raccontarci quello che sentono, quello che provano, e quindi dobbiamo naturalmente andare anche a tentativi, sia come genitori, come familiari e poi naturalmente come medici, no dottor Silano? È correttissimo quello che ha detto. La celiachia infatti è definita un camaleonte clinico per la varietà di sintomi con cui si manifesta, ma anche con la gravità. Ci sono dei bambini che vengono diagnosticati a 2 anni perché hanno una sindrome di malassorbimento gravissima che richiede addirittura l'ospedalizzazione, altri bambini invece del tutto asintomatici che vengono diagnosticati perché parenti di primo grado di un paziente celiaco già diagnosticato o attraverso degli screening di popolazione. Quindi scriveteci anche se vi trovate magari in queste situazioni, come dire, chiamiamole così, di sospetto. Cercheremo di capire come potervi orientare per andare ad effettuare una diagnosi corretta. Dottor Silano, la novità di cui vogliamo parlare oggi e che ci dà un ottimo spunto anche per rispondere ancora una volta a tutte le domande dei nostri ascoltatori riguardo ai sintomi di questa malattia di cui parlavamo proprio poco fa, peraltro ricordiamo ancora una volta che l'unica terapia al momento rimane la dieta e quindi l'esclusione del glutine da questa, dicevamo appunto dobbiamo andare a parare adesso sull'iter diagnostico. Allora iniziamo ricordando come attualmente viene effettuata la diagnosi. Guardi, posso dirle che oggi già sono state implementate le nuove linee guida, quindi fino a ieri la diagnosi in età pediatrica richiedeva obbligatoriamente un prelievo di un frammento, o meglio più frammenti, della mucosa duodenale. Questo veniva fatto con un esame un pochino invasivo e molto fastidioso che creava ansia soprattutto ai genitori, che era la duodenoscopia, cioè attraverso un duodenoscopio dalla bocca si arrivava nell'intestino e si prendevano dei frammenti di mucosa. Già oggi questo esame in una popolazione selezionata di bambini con sospetto diagnostico di celiachia può essere evitato. Questo da ieri, da domani che cosa succederà allora con le nuove linee guida dopo appunto l'endoscopia? Allora, al posto dell'endoscopia, il bambino, se arriva con sintomi fortemente suggestivi di malattia celiaca, all'attenzione del medico, se ha dei livelli di anticorpi specifici per la malattia celiaca, che si chiamano anticorpi transglutaminasi, superiore a 10 volte il valore normale ed è positivo a un'altra classe di anticorpi specifici per la malattia celiaca, che si chiamano antiendomisio, gli viene posta diagnosi senza fare la duodenoscopia e la biopsia della mucosa duodenale. Intanto continuo a ricordare il numero verde per i vostri interventi, vedo già alcuni ascoltatori che si sono messi appunto in collegamento con noi. Adesso spiegheremo anche con il dottor Silano l'importanza di un attento, come dire, follow up, mantenimento dei controlli a scadenze regolari. Adesso le ricorderemo, ma le faccio sentire subito, dottor Silano, il caso di un ascoltatore che ci chiama da Milano ed è Paolo. Paolo, benvenuto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno e grazie per la bella trasmissione. Grazie a lei. Vorrei chiedere questo: mia figlia che ha 6 anni ha una sospetta celiachia che con il sistema delle analisi del sangue non si riesce a curare perché ha dei problemi di immunologia che rendono incerto il risultato. questa nuova tecnica di cui lei sta parlando supera l'attuale sistema dell'analisi del sangue, certo, o è la stessa tecnica che però viene ampliata su una platea più ampia di bambini? O comunque, noi stiamo aspettando prima di fare il prelievo, esatto, dei villi, no? Perché esatto, in effetti è un po' fastidioso, ecco. Chiarissimo, grazie, grazie Paolo. Allora, dottor Silano, sono più sofisticate le nuove analisi secondo questo nuovo protocollo di cui ci sta parlando lei? Allora, gli esami diventano sempre più sofisticati. In realtà il caso del signore che ha appena chiamato è un caso che non ricade in queste nuove linee guida. Infatti, se il dosaggio degli anticorpi a cui faceva riferimento il signore, di cui ho parlato prima io, gli anticorpi antitransglutaminasi, è inferiore a 10 volte il cutoff, il valore normale, comunque bisogna utilizzare la biopsia duodenale per fare diagnosi. In una categoria di bambini la biopsia è ancora obbligatoria. Certo. Allora, dottor Silano, proprio per essere molto chiari con i nostri ascoltatori, ribadiamolo nuovamente: quali casi ricadono nelle nuove regole alla luce appunto delle nuove linee guida? Allora, sintomi suggestivi di malattia celiaca, livelli nel sangue periferico di anticorpi antitransglutaminasi superiori a 10 volte il livello di normalità e positività agli anticorpi antiendomisio, oltre che la predisposizione genetica positiva alla celiachia, cioè avere gli alleli di Q2 e di Q8 nel proprio corredo genetico. Dottor Silano, noi non vorrei rischiare di essere stati fuorvianti con i nostri ascoltatori. Allora, le nuove linee guida riguardano tutta la popolazione di potenziali celiaci o sono esclusivamente rilevanti per i bambini potenzialmente celiaci? Cioè, abbiamo capito che chiaramente l'esame che si deve fare per appurare l'esistenza della patologia è molto invasivo e se si può evitare per un bambino è molto meglio, ma se un adulto individua, sospetta di essere celiaco in età adulta, può chiaramente chiedere di fare dei controlli secondo le nuove raccomandazioni? Allora, il gruppo di lavoro del Ministero della Salute che ha rivisto le linee guida per la diagnosi di celiachia ha rivisto anche e semplificato molto criteri di diagnosi per gli adulti, che adesso consistono in un prelievo di sangue per gli stessi anticorpi, però in caso di forte sospetto clinico confermato dalla positività anticorpale negli adulti, la biopsia rimane obbligatoria. Certo. Negli adulti, anche perché negli adulti c'è un problema di diagnosi differenziale molto più importante che nei bambini. Mi spiego meglio: mentre i bambini che hanno delle caratteristiche cliniche e la risposta positiva agli esami di cui ho parlato prima è molto molto probabile che siano celiaci, negli adulti ci sono molto altre condizioni che nelle stesse caratteristiche cliniche e di risultati di laboratorio devono essere comunque escluse. Quindi negli adulti sopra i 18 anni di età la biopsia intestinale in corso duodenoscopia rimane un esame obbligatorio per la diagnosi di celiachia. Le faccio ascoltare anche il caso di Giuseppe da Milano, anche in questo caso ritorniamo tra la popolazione degli adulti che sospettano di essere appunto stati colpiti da celiachia o comunque che lo sono già. Giuseppe, buongiorno, poi andiamo al traffico per proseguire sul tema di questa mattina, queste nuove raccomandazioni appunto dell'Istituto Superiore di Sanità. Giuseppe, benvenuto. Sì, buongiorno a tutti voi e complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo chiedere al professore questa domanda qua. Io ho fatto una visita all'ospedale per intolleranza alimentare, è risultato tutto negativo, quindi frumento, vari cibi, è tutto a posto. Ma include anche la celiachia oppure non c'entra, oppure bisogna fare un altro test, un altro esame? Grazie Giuseppe. Allora, ha fatto un gruppo di test per verificare se avesse delle intolleranze di natura alimentare. Quello per la celiachia, secondo lei, era compreso? Giuseppe avrebbe dovuto individuarlo chiaramente, magari nella prescrizione medica che gli era stata fatta. Si tratta di un altro tipo esame. Probabilmente il signore ha fatto gli esami per le allergie IgM mediate e per le intolleranze. In realtà gli anticorpi antitransglutaminasi si fanno al di fuori di questo pannello, per cui è un esame che va fatto a parte. Chiarissimo. Allora, 800 24 00 24, il numero verde a vostra disposizione. Approfittate di questi minuti di tempo che concediamo adesso al traffico per comporre il nostro numero verde e intervenire sul tema di cuore di questa mattina. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Cuore e Denari. Ci ritrovati insieme per l'ultima parte di Cuore Denari. Siamo insieme al dottor Silano, direttore del reparto di alimentazione, nutrizione e salute dell'Istituto Superiore di Sanità, e ci sta spiegando molto chiaramente, dottor Silano, le nuove raccomandazioni per poter effettuare una corretta diagnosi della celiachia, nuove raccomandazioni che naturalmente sono particolarmente rilevanti per la popolazione dei giovani, giovanissimi colpiti da questa patologia. Peraltro, una volta diagnosticata, dottor Silano, le linee guida suggeriscono anche l'importanza, come dicevamo prima, di un'attenta sequenza di controlli a scadenze regolari. Li vogliamo ricordare? Sì, l'esigenza che i celiaci debbano fare un rigoroso follow-up dopo la diagnosi è comunque scientificamente provata, perché dopo la diagnosi e all'instaurare di una corretta e permanente dieta senza glutine il celiaco sta immediatamente meglio, ma nonostante questo deve ricordarsi periodicamente di andare dal medico. I controlli vanno fatti all'incirca ogni due, il primo controllo dopo il primo anno, poi anche una volta ogni due anni in benessere. Se poi compaiono invece dei disturbi, naturalmente bisogna ricorrere immediatamente dal medico. Certo. Questi controlli periodici riguardano innanzitutto in una visita medica, in una visita del dietista o del dietologo per valutare l'aderenza alla dieta di eliminazione del glutine, se questa non ha dato origine a delle squilibri nutrizionali, e poi un esame del sangue. In particolar modo l'esame del sangue serve per controllare quegli stessi anticorpi che sono serviti per la diagnosi, perché finché questi sono sotto il livello di normalità possiamo stare relativamente tranquilli che tutto va bene. Dottor Silano, vorremmo commentare con lei anche i risultati di uno studio pubblicato dalla rivista European Journal of Pediatrics, coordinato dagli scienziati dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù, che evidenzia che i nati nei mesi estivi hanno maggiore probabilità di sviluppare la celiachia, e il motivo risiederebbe nella concomitante assunzione del glutine per la prima volta e alcune infezioni virali da rotavirus. Cosa ne pensa? E così ci potrebbe essere qualcosa che accende come una miccia la celiachia in soggetti che immagino però siano anche predisposti? Sì, lei ha perfettamente ragione. La celiachia è una malattia multifattoriale che per svilupparsi ha bisogno di due fattori: uno ambientale, cioè la presenza del glutine negli alimenti che si mangiano, e l'altro, come ha giustamente sottolineato lei, la predisposizione genetica, che sono quelle due molecole di Q2 e di Q8 la cui ricerca è importante per fare diagnosi senza biopsia. Però solo il 30% della popolazione mondiale, quindi la popolazione globale che ha entrambi questi fattori, sviluppa la celiachia. Quindi c'è necessariamente un altro fattore, sia o di carattere genetico o di carattere ambientale, che innesca, esattamente come una miccia, la celiachia in soggetti predisposti che mangiano glutine. Uno di questi potrebbe essere un'infezione virale. In realtà delle evidenze certe e sicure da un punto di vista epidemiologico non ci sono. Ci sono dei dati di laboratorio prodotti sul bancone, ma da un punto di vista epidemiologico il ruolo per esempio del rotavirus nello scatenare la celiachia è supposto, ma non è ancora certo. Ero pronta con una domanda relativa alla possibile ereditarietà della celiachia, ma guardi, me la ruba Stefania da Napoli, per cui la sentiamo immediatamente. Stefania, benvenuta, buongiorno. Buongiorno a tutti e grazie per trattare molto spesso questo tipo di argomento, che è veramente complicato, soprattutto da far comprendere agli altri. È vero, è vero. Io ho una bambina celiaca di 3 anni e mezzo, diagnosticata giusto un anno fa, e sono stati fatti sia a me, a mio marito, che all'altra bimba, chiaramente gli esami del Q8 e Q2. Io sono risultata, diciamo, averli tutte e due, Q8 e Q2, mentre mio marito solo Q8 e l'altra bambina Q2. Volevo chiedere al professore quanta possibilità abbia io e anche, diciamo, mio marito e l'altra bimba di poter eventualmente manifestare, diciamo, scatenare, se così si può dire, la celiachia. Grazie Stefania. Grazie a lei. Grazie. Dottor Silano, una bella domanda quella di Stefania. Sì, una domanda molto molto interessante. Allora, entrambi, sia la signora che il marito e l'altra bimba, hanno la predisposizione genetica alla malattia celiaca, e il rischio in percentuale nella popolazione portatore del gene è all'incirca del 15-17%, cioè vuol dire che su 100 persone che hanno il gene, 15-17, tra le 15 e le 17 sviluppano a un certo punto della loro vita la malattia celiaca, contro l'1%, quindi 1 su 100 della popolazione generale. Mm-hmm. Dottor Silano, in questo caso, nel caso di Stefania di Napoli, abbiamo parlato di due genitori predisposti, ma ammettendo che uno dei due partner sia invece in una condizione di celiachia diagnosticata e conclamata, quante probabilità ci sono che da una coppia in cui uno dei due partner sia celiaco nasca un bambino affetto da celiachia? Il rischio a cui facevo riferimento prima, cioè il 15-17%, vale per tutta la popolazione a rischio. Poi ci sono delle stratificazioni a seconda del tipo di Q che si ha, o il di Q2 o il di Q8, ma poi è una trattazione un po' troppo specifica che annoierebbe. Il rischio generale comunque di chi ha uno o entrambi i genitori resta sempre quello fra il 15-17%, diciamo. Rimanendo ai bambini, dottor Silano, lo dicevamo anche prima, la celiachia può manifestarsi con tempi diversi, no? Ci sono stati degli studi che hanno cercato di capire cosa può ritardare la comparsa dei sintomi. Per esempio, pare che il protrarsi dell'allattamento al seno possa far ritardare la comparsa, è corretto? O ci sono anche altri fattori? No, purtroppo l'allattamento al seno non rallenta né ritarda la comparsa della celiachia, cioè i bambini che sono stati allattati al seno o che hanno ricevuto latte materno contemporaneamente alla prima volta che hanno preso il glutine sviluppano la celiachia esattamente come quei bambini che non sono stati allattati al seno, che sono stati allattati con il latte dal biberon, con le formule artificiali. Un fattore che sembra ritardare ma non prevenire, semplicemente ritardare di qualche anno la comparsa della celiachia, è ritardare l'introduzione del glutine per la prima volta dopo aver compiuto l'anno di vita. Chiarissimo. Dottor Silano, grazie molto soprattutto per la sua chiarezza con cui, come hanno riconosciuto anche gli ascoltatori, ci ha spiegato queste novità che sono così importanti, hanno dei contorni anche molto delicati. Grazie molto e buon lavoro. Grazie, ci ha già salutato, io ringrazio, grazie molte, ringrazio anche Marco Lombardo, Laura Vanossi e Carmelo Lauricella. Noi ritorniamo domani, sarò regolarmente in onda con Nicoletta. A tutti, buona giornata.